Pioggia di missili iraniani su basi irachene, cade un aereo a Teheran, l'allerta è massima, ma ci sono più punti di domanda che altro. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Iran in its actions overnight launching a ballistic missile attack on air bases housing US forces in Iraq. Ayatollah Ali Khamenei has called on the United States to pull its forces out of the Middle East. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, il programma che vi racconta la grande attualità internazionale con le voci dal campo e la grande analisi. La squadra di Nessun Luogo: Antonio Taglia, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani in console. I numeri di Nessun Luogo è Lontano: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp per porre domande o commentare il tema di quest'oggi. Neanche a dirlo, proveremo a mettere dei punti fermi su quelli che per ora sono davvero dei punti di domanda. Cosa è accaduto, quella reazione iraniana che da più parti si aspettava, ma forse che non ha avuto esattamente gli esiti che molti si aspettavano. È stata una vera prova di forza oppure, come qualcuno già inizia a sussurrare, una efficace messa in scena? Potete commentare anche su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Su Twitter i due account sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. La prima parola che vedo è Trump, ve ne darò conto tra pochissimo. I polpastrelli sono veloci. Prima però c'è un termometro internazionale, dobbiamo misurare un po' di dossier che rimangono davvero molto caldi. Lo avete sentito anche dal GR, il generale Haftar è a Palazzo Chigi per incontrare il premier italiano Conte in serata. È atteso anche l'altro premier libico, quello riconosciuto internazionalmente, cioè Fayez al-Serraji. In questo momento è davvero difficile fare un'ipotesi su quella che sarà la dinamica di questi due incontri. Gli incontri, si è precisato dalle agenzie, sono separati. È chiaro che se il premier Conte riuscisse a fare la magia, a far stringere le mani ai due contendenti che non si vedono e non avevano, almeno nelle dichiarazioni, alcuna intenzione di vedersi, sarebbe davvero un colpo diplomatico eccezionale. E, pochi minuti fa si è chiuso un altro incontro fra Serraji e Borrell, il responsabile della politica estera europea. Non si sa ancora benissimo quello che è uscito da quest'altro incontro, stavolta in sede europea. Se le cose andassero bene, bene intendo dal punto di vista politico per l'Italia ma anche per la Libia, a questo punto quei fili così sfilacciati che vi avevamo raccontato della diplomazia, proprio la puntata di ieri era tutta incentrata, no, su questa divisione ormai tra le armi diplomatiche e quelle invece reali. Le seconde ormai sembravano aver preso il sopravvento, insomma potrebbe essere davvero una vittoria per la diplomazia italiana, però aspettiamo, le dichiarazioni probabilmente usciranno nei prossimi minuti. Di altro tenore è invece l'incontro che vi è stato fra Erdogan e Putin. È durato quasi tutto il giorno e i due leader erano attesi alla cerimonia di inaugurazione del gasdotto, il Turk Stream. Tra grosse misure di sicurezza vi erano anche altri leader, tra cui quello serbo e quello bulgaro. E questo nuovo progetto ribadisce in qualche modo l'importanza di questa amicizia, di questo nuovo asse, nuovo per modo di dire evidentemente, Ankara-Mosca, che in qualche modo si infila anche geostrategicamente nel Mediterraneo. Un partenariato che io amo sempre ricordare è anche e soprattutto militare. L'aspetto militare è sicuramente una delle grandi leve della politica internazionale, oltre all'approvvigionamento energetico. Sono quelle forniture militari, gli S-400 su tutti, che la Russia ha consegnato, ed è prevista la seconda consegna proprio in queste settimane, alla Turchia. Mentre i due leader libici sono a Roma e stanno appunto incontrando rispettivamente prima Haftar, poi al-Sarraj, il premier Conte. Invece il ministro degli esteri Luigi Di Maio è arrivato in Egitto, al Cairo, poi si recherà anche ad Algeri. Sul tavolo c'è la questione libica, però ci permettiamo di chiederci, di domandarci e domandarvi, chissà se Di Maio parlerà anche col suo omologo del caso Regeni, di cui continuiamo ad aspettare notizie, evoluzioni e possibilmente, non è una chimera, la verità su ciò che è accaduto e soprattutto le responsabilità. Allora, 349-238-6666, ve lo ricordo ancora una volta, ma ce l'avete bene in mente perché sono già tanti i messaggi che stanno iniziando a dare un'interpretazione su quello che è accaduto nella nottata di quest'oggi. Partiamo da cosa? Partiamo da quel bombardamento, andiamo in Iraq, è 1:02, ora locale. Questo è il suono di quei missili partiti da territorio iraniano. In rete si trovano alcuni video non perfettamente intelligibili perché l'attacco, lo ripeto, è avvenuto questa notte. Almeno 10 razzi sono caduti su basi irachene che ospitano anche però personale americano e della coalizione a guida americana. Cosa è successo? Beh, l'Iran ha esultato. Inizialmente ha detto 80 militari statunitensi morti. Gli Stati Uniti hanno risposto nessun morto, nessun ferito, e addirittura il presidente Trump, con un tweet in piena notte, non gli è usuale esattamente, ha detto tutto a posto, mentre Khamenei gli faceva eco dicendo abbiamo dato uno schiaffo in faccia agli Stati Uniti. A complicare la questione, e poi cercheremo di capire quali sono i due piani della questione, nelle stesse ore è precipitato un Boeing di linea ucraino al decollo da Teheran. Perché dicevo i due piani della questione? Perché se da un lato quella pioggia di missili ha colpito effettivamente a quantomeno i dintorni di due basi, Ain al-Asad nella provincia di Anbar e poi Erbil, e qui siamo nel Kurdistan iracheno, dall'altro è stata, come dire, forse più massiccia la tempesta di dichiarazioni e controdichiarazioni da una parte e dall'altra della pioggia di missili stessi. Segno che dobbiamo distinguere i piani, e questo deve essere assolutamente fatto. È una guerra, ma come in tutti i conflitti, che si nutre anche della propaganda, si nutre del consenso interno, e anche la risposta iraniana probabilmente va letta soprattutto in questa chiave. Dopo però la caduta di quell'aereo, nessun superstite a bordo, un aereo di linea di una compagnia ucraina che volava appunto da Teheran a Kiev, l'intera regione è stata chiusa ai voli aerei da parte di parecchie compagnie, queste per evidente motivi di sicurezza e precauzioni. Sono tante le domande, ripeto, adesso proveremo a dare quantomeno delle risposte. La prima, dicevo, è il giallo su questo aereo, e qua mi soccorre Italo Oddone, comandante, pilota militare civile, docente al Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale. Comandante Oddone, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno. Allora, partiamo da un po' di dichiarazioni, così mettiamo dei punti fermi, perché soprattutto sui social si leggono una serie di scenari, molto spesso dettati anche da poca dimestichezza con i termini dell'aviazione e con le cose che riguardano gli aerei, però ai noi i cospiratori ci sono sempre, quindi proviamo a sgombrare il campo chiarendo cosa c'è di certo. Allora, di certo c'è una dichiarazione della compagnia aerea ucraina che ha detto l'aeromobile era in perfetta efficienza, era nuovo e esclude, così recita un'agenzia, l'errore umano. A questo punto cosa può essere successo? Ma allora, l'aereo sicuramente da tre anni è un aereo nuovo sostanzialmente. Sì. Questo non può escludere un guasto. I piloti erano, la compagnia è molto accreditata, molto attenta, per cui sicuramente i piloti erano piloti ben addestrati, ma anche qui non si può escludere a priori un errore umano. Quindi diciamo che bisogna vedere i risultati dell'inchiesta prima per parlare in modo serio e fermo su quel che possono essere i motivi certo. di questo incidente. Certo, fra l'altro, comandante, la interrompo per aggiungere questo dettaglio. L'aereo è precipitato subito dopo il decollo, a pochi chilometri dall'aeroporto. Quando lei dice indagine, chiaramente bisogna basarsi sulle registrazioni della scatola nera. E Teheran ha, tramite un'agenzia, ha fatto sapere che non consegnerà per il momento la scatola nera perché non sa a quale paese consegnarla. Così recitava un'agenzia. Allora, l'inchiesta viene svolta secondo dei standard internazionali, il riferimento è l'annesso 13 dell'ICAO, per cui l'inchiesta spetta alla nazione dove è successo l'evento, sì. Quindi all'Iran. Sì. L'Iran sicuramente dovrà coinvolgere le nazioni di appartenenza della società, quindi l'Ucraina. Dovrebbe coinvolgere anche le nazioni di costruzione dell'aereo del motore, adesso questo momento politico non so come sarà possibile, forse non verrà fatto. Poi possono esserci anche tanti altri accreditati. Sì. Può darsi che però l'Iran non sia in grado di leggere le scatole nere. Bisogna avere delle apparecchiature, normalmente gli stati in Europa, quasi tutti gli stati europei sono in grado di farlo, così come in grado di farlo la Russia, come in grado di farlo gli Stati Uniti, ovviamente. Sì. Però al momento dice non siamo in grado di dire, certo, se i tecnici iraniani sappiano leggere quello che è accaduto. Questo non lo so, dipende dall'agenzia investigativa iraniana, io non ho conoscenza di dettaglio di questo. Certo, può essere che una nazione non sia in grado di leggerlo, ma definirà o deciderà a quale nazione appoggiarsi per fare leggere le scatole nere. Sì. Evidente, nelle scatole nere c'è tanta informazione, non è solo lì l'informazione, certo. Informazione anche sui detriti e l'informazione anche da tante altre sulle schede del personale, insomma informazioni sono molto ampie durante un'inchiesta. Ecco. Certo, ecco comandante, veniamo a un altro punto, per il momento ci dobbiamo basare sulle immagini che circolano in rete, alcune di queste fotografie, e penso che le abbia visionate anche lei, in realtà non sono chiarissime, però qualcuno indica sui social, anche qualche giornalista, analista piuttosto accreditata, vedete ci sono segni di esplosioni esterne, addirittura qualcuno trova dei buchi nei motori, nella carlinga, e questo sta alimentando la sensazione, l'ipotesi che possa essere stato abbattuto per errore da missili iraniani che erano diretti verso l'Iraq. Lei dalle foto, guardando le foto, e mi rendo conto che non è, come dire, facile da un'immagine di cui anche dobbiamo verificare l'autenticità, provare a fare delle ipotesi, però mi dia una mano e proviamoci. Ecco, questo è il punto base, bisogna tanto verificare l'autenticità delle foto. Noi siamo abituati a lavorare coi piedi di piombo, diciamo così, cioè basandoci su dati certi e certificati. Sì, sì. Le foto lasciano aperta questa ipotesi, questo è vero. Non sarebbe la prima volta, mi ricordo ultimamente il caso in Ucraina del volo della Malaysian Airlines, se non sbaglio, che venne abbattuto sulla zona del Donbass. Sì. Però anche qui nell'inchiesta aeronautica, laddove gli inquirenti avranno a disposizione i resti dell'aeroplano, è abbastanza evidente se è stato abbattuto o no. Un missile terra-aria che esploda per prossimità lascia dei segni diffusi molto chiari, ecco. Sì. Per cui se così fosse, dall'inchiesta apparirà anche questo dato. E chiaramente allo stesso punto l'inchiesta prenderà una piega diversa. Certo. Sì, una piega diversa. Cioè, non si tratterà più di vedere le cause dell'incidente dal punto di vista aeronautico, ma sono motivazioni diverse. Ecco. Chiarissimo. Questa è una delle ipotesi al momento che evidentemente si spera verranno fugate. L'altra ipotesi è appunto un guasto tecnico, probabilmente, ma qual è il momento più delicato per un pilota, comandante? Lei che ha esperienza proprio in questo senso? Allora, il momento più delicati sono quelli più vicini a terra, sicuramente, perché il margine per rimediare un eventuale errore è poco. Il decollo è una fase non particolarmente complessa, però in cui si richiede il massimo sforzo anche al motore, e la velocità non è elevata, la quota è bassa, questo sicuramente è un dato di maggior rischio, ma un'area, diciamo, una fase di volo dove è più facile, più probabile anche statisticamente avere incidenti. Incidenti sono in decollo, in atterraggio, la massa degli incidenti. Sì. Quindi da questo, Il decollo è una manovra normale, non lo starei adesso dire in decollo. Certo. E l'ultimissima questione, sempre leggendo sui social, e qua perdonerà insomma la mia domanda, anche forse un po' naif, ma riflette la mia ignoranza sul tema, non me ne vergogno. Qualcuno ha ipotizzato che, dato il contingente lancio di missili verso le basi dove c'erano anche i soldati americani, gli americani potrebbero aver cercato di disturbare le frequenze, e questo in qualche modo potrebbe aver impattato sui sistemi di comunicazione dell'aereo, sull'elettronica dell'aereo. Le sembra un'ipotesi quantomeno verosimile o no? Questa mi sembra più inverosimile. Certo, un disturbo elettronico può aver disturbato le comunicazioni, certo, ma ci sono dei piloti a bordo che comunque sono in grado di volare un aeroplano anche senza, anche solo con un volo basico, quindi anche senza dover attingere a comunicazioni radio, certo, o altre informazioni. Quindi questo mi sentirei di considerarlo, di escluderlo quasi. Sì, ecco. Sì. Allora, abbiamo cercato con il comandante Italo Oddone, lo ricordo, pilota militare civile, insegna al Politecnico di Milano, al Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, di mettere qualche punto fermo. Mi rendo conto che al momento non è facile. Certo, se è vero che sarà l'Iran stesso a condurre l'inchiesta, questa cosa solleverà ulteriori dubbi, perché ancora una volta, accogliendo quell'ipotesi, che è soltanto un'ipotesi, che sia stato un missile iraniano stesso ad abbattere il velivolo, insomma, che il colpevole indaghi su se stesso, diventerebbe un po' difficile da accettare da parte della comunità internazionale. Quando avremo elementi di più, evidentemente potremo fare un ragionamento diverso, magari però sempre con lei. Comandante Oddone, la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, comandante. Questa era la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Ci tenevamo in qualche modo a provare a fissare un po' dei punti su quella che era una serie di congetture che sui social, come spesso accade, sono scaturite. 349-238-6666, sono tanti i vostri messaggi, proverò a rendervene conto e anche a sintetizzare un po' quello che è il termometro degli ascoltatori. Innanzitutto un primo messaggio molto sintetico ma anche estremamente efficace: è stata tutta una pagliacciata, così un ascoltatore. Ha ragione Trump, tutto ok, citando il tweet del presidente americano, ognuno ha fatto la sua parte, anche qua, come dire, alimentando quella che potrebbe essere, secondo molti, ma attenzione, fra poco vi dico le ultime dichiarazioni del premier iracheno e capirete perché abbraccio anche io questa tesi. Cosa ha detto il premier Mahdi? Sostanzialmente ha ricevuto una telefonata ufficiale, ma verbale, quindi al telefono, non c'è stata alcuna nota scritta, che l'attacco sarebbe avvenuto. A lui lo ha riferito ai militari iracheni e lo ha riferito anche ai militari statunitensi. Un altro ascoltatore mi chiede del bilancio delle vittime. Purtroppo non è dato saperlo, il presidente Donald Trump parlerà tra pochissimo, è un altro dei punti di domanda. Lo ripeto, non dico senza un filo di imbarazzo, stiamo andando in onda quest'oggi, perché la notizia è una notizia incredibile, la situazione è in pieno sviluppo, nessuno si aspettava una risposta iraniana così veloce. Allo stesso tempo siamo costretti a darvi conto di più punti di domanda che risposte, ai noi. Proveremo nell'ultima mezz'ora a cercare di colmare questa lacuna. Mi chiedo come mai gli attacchi iraniani contro Saudi Aramco sono stati così precisi e chirurgici, mentre quelli di ieri in Iraq contro le basi statunitensi sembrano siano stati molto approssimativi. Qualcosa non mi quadra, così Diego. In effetti già in ambienti della Casa Bianca circola l'ipotesi che in qualche modo gli iraniani abbiano voluto tirare un colpo quasi a salve. Sostanzialmente mancare volontariamente un obiettivo pur sensibile per far capire che insomma sono in grado di sferrare quell'attacco. Certo, dall'altro lato Khamenei ha gioito, la prima dichiarazione è stata a slap in the face, un schiaffo in faccia agli americani, e ha aggiunto: non ci faremo intimorire, non arretreremo davanti agli americani, come a dire noi la nostra risposta l'abbiamo data. Nell'ultima parte andremo più a fondo su questo aspetto, perché abbiamo una tesi da proporvi che secondo noi regge piuttosto e potrebbe disegnare lo scenario dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Allora, c'è qualcuno che inizia a fare un po' il gioco delle colpe, ma qua è difficile, attenzione, sul Medio Oriente allargato è stato l'Iran a cominciare a diffondere il terrore tra gli alleati degli Stati Uniti. Poi c'è qualcuno che si torna su Libia, condividendo la nostra considerazione: se il premier italiano riuscisse a parlare, seppure a distanza, sarebbe un bel colpo. Pensiamo a Haftar e Serraj che provano a trovare un'intesa alla faccia di tutti quei paesi che provano in tutti i modi a farci la festa o comunque a coltivare i propri interessi alle nostre spalle. Così Claudio da Verona, e lo dice, aggiunge Claudio, uno che non è un simpatizzante per l'attuale governo. Un altro messaggio, questo è lunghissimo: ci lamentiamo che il presidente Donald Trump ordina un attacco militare senza avvertire né il suo senato né le istituzioni degli alleati, ma anche da noi il ministro degli esteri continua a volare per svolgere incontri diplomatici con altri politici e istituzioni internazionali per affrontare gravi problemi. Però io non paragonerei la stessa cosa, insomma mi sembra che un atto di guerra, un'uccisione, fra l'altro dal punto di vista del diritto internazionale, un'esecuzione a tutti gli effetti, c'erano, come dire, grossissimi dubbi, no, sulla legittimità, stata avanzata anche dalle grosse organizzazioni internazionali, di quell'operazione che ha portato alla fine del generale Qassem Soleimani. Torno sui vostri messaggi tra pochissimo, 349-238-6666, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Uno degli hashtag che andava per la maggiore in queste ore era la Terza Guerra Mondiale, un hashtag francamente dai toni apocalittici che non condividiamo assolutamente, anche perché, a pensarci bene, ed è un'altra delle tesi che vi proponiamo molto ragionevolmente, quello che accadrà è che continuerà a essere l'Iraq il grande campo di battaglia, senza un'estensione di questo campo di battaglia stesso. È molto più circoscritto e molto più efficace, forse ci si possono tirare dei cazzotti e lanciare messaggi ai propri elettorati. Entrambi sono in scadenza elettorale, diverse, legislative Iran 21 febbraio, Donald Trump novembre 2020, quindi ci si possono appuntare delle belle medaglie al petto. La politica estera è fatta anche di sano cinismo e senza farsi troppo male, appunto, sul ring. Allora, tra pochissimo apriremo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano e lo faremo con un altro ospite che... Intanto do già il benvenuto, il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente della Fondazione ICSA, Intelligence Culture and Strategic Analysis. Generale, buongiorno, benvenuto qui a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buon pomeriggio. Allora, la prima domanda che le faccio al volo, e le chiederei una risposta telegrafica se possibile: qualche settimana fa il presidente Macron aveva detto che la NATO era in coma. In queste ore Stoltenberg, segretario generale della NATO, sta sostanzialmente ridisponendo alcune pedine, alcuni uomini, dicendo che non vi sono le situazioni di sicurezza che lo permettono. È davvero così? È un malato moribondo che conta poco e quando si spara è costretto a sottrarsi? Mi ha invitato ad essere telegrafico, lo sarò. La NATO non è in coma. Sì. La NATO è un organismo che deve rimanere vivo, perché è l'unico che... permetterebbe di fronteggiare le crisi quali quelle cui stiamo assistendo. Deve essere soltanto rivisitata e deve essere riorientata la sua missione dalle radici, sottraendola possibile all'influenza eccessiva americana. Chiarissimo, è stato telegrafico e anche estremamente efficace. In qualche modo ha risposto ad alcuni ascoltatori che chiedevano, generale, e si domandavano al 349-238-6666, ma com'è possibile che noi tutti, intendendo la comunità internazionale, dobbiamo subire l'egemonia statunitense e l'iniziativa, l'intraprendenza, a volte, come dire, un po' rocambolesca, se vogliamo usare un termine un po' naif, appunto, americana. Facciamo una piccola pausa, in generale, resti con noi, sentiamo l'informazione finanziaria, che di questi tempi è importante perché si sa, le borse reagiscono anche a questi eventi, e poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroën C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Info su citroen.it. Citroën. Propositi per l'anno nuovo. Dieta. Sì, da lunedì. Palestra. Al massimo soft yoga. Prendermi del tempo per me. Sarà il solito tempo di un caffè. Almeno sul caffè non scendere a compromessi. Inizia l'anno con la qualità superiore di Nespresso. Con i Nespresso White Days puoi avere la macchina Inissia e 100 capsule di caffè a soli 69 euro fino al 19 gennaio. Andare nelle boutique Nespresso o su Nespresso.com. Nespresso, what else? Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano proviamo a dare delle risposte alle tante domande che aleggiano su questa, intanto la risposta iraniana all'uccisione di Qassem Soleimani e poi alla quell'incidente o abbattimento, ancora sono le tesi sono contrapposte e prive di fondamento per il momento entrambe del Boeing ucraino. Siamo con il generale Leonardo Tricarico, al quale volevo chiedere che idea si è fatto della risposta iraniana. Non è usuale che l'Iran colpisca a viso aperto, normalmente si serve di milizie, di alleati, lo fa in maniera più sotterranea. La insospettisce, le dà, come dire, le accende qualche lampadina su una possibile nuova strategia iraniana? Ma no, l'Iran, come tutti i paesi, ha delle forze armate. Immagino che queste forze armate abbiano già una loro strategia, dei loro obiettivi di carattere classico, diciamo, quelli di cui faceva cenno lei. Hanno gli armamenti per colpire questi obiettivi e in questo momento forse una risposta così aperta, trasparente, inequivocabile a quello che serviva per far capire sia al consenso internazionale ma soprattutto ai suoi cittadini umiliati e carichi di rabbia e di odio, sì, che c'era stata una reazione. Sì. Io credo che questo fosse il minimo, sì, che ci si potesse aspettare. Mi sembra una reazione equilibrata, una reazione comprensibile, e si spera che qui finisca o qualcosa di simile. Sì, a sentire le dichiarazioni dei leader iraniani così parrebbe, generale, però è anche vero che se all'orizzonte vi fosse un attacco, questa volta asimmetrico, sto pensando a una risposta per esempio di Hezbollah su Israele o magari Stretto di Hormuz, dove già c'è, come dire, qualche tensione, lo sappiamo da mesi e mesi, certo non è che i leader iraniani vanno ad annunciare, no, risposte tramite proxy, come si dice in slang tecnico. L'Iran ha messo a punto una sua dottrina di impiego dello strumento militare abbastanza delineata ormai, faceva cenno allo Stretto di Hormuz. Ecco, quella può diventare un'area critica certamente, con operazioni non convenzionali. Non avrei paura di Hezbollah, perlomeno dal Libano, perché mi sembra, io non l'ho visto, ma sembra che ci sia già da qualche dichiarazione che da lì non partirà nessun attacco verso Israele, perché il Libano è già un paese allo stremo e non gli si vuole procurare ulteriori difficoltà. Certo, il futuro non è roseo, c'è da augurarsi che l'equilibrio che a fatica era stato raggiunto si possa ristabilire, e anche la questione del nucleare sia soltanto una maniera per insomma, un deterrente più, sì, che un vero e proprio di arrivare all'ordine nucleare, cosa dalla quale dubito, perché credo che Israele non lo permetterebbe. Certo, certo. Insomma, lo scenario da un certo punto di vista preoccupa, secondo il generale Tricarico, dall'altro vede più luce che ombre all'orizzonte. Infine, ma mi corregga se sbaglio generale, se dovesse puntare il dito sulla mappa per indicare quella che potrebbe essere una prossima area di crisi, ancora una volta Stretto di Hormuz, quindi traffico petrolifero con evidenti conseguenze economiche. Sì, quella è un'area certamente critica. E poi certo ci sono le partite aperte dello Yemen, e poi sullo sfondo c'è, a parte la lotta sul Houthi sciiti, perché sì, quella è sempre la costante di sì, cui non bisogna mai non tener conto, c'è anche la grande idea della Mezzaluna Rossa cosiddetta, e cioè della visione strategica dell'Iran, avere un ruolo, diciamo, di potenza regionale mediante la presa del potere in tutti i paesi dove c'è lo sciismo, cominciare dal Libano attraverso l'Iran, appunto la Siria, sì, l'Iraq e l'Afghanistan. Sì, sì. Questo è il disegno finale. Insomma, l'impero persiano, se posso sintetizzare, all'interno di quel Medio Oriente allargato. Grazie mille al generale Leonardo Tricarico per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. 349-238-6666, continuano ad arrivare i vostri messaggi. C'è una tesi interessante che mi suggerite in 2-3 almeno. Potrebbe anche essere che il generale Soleimani aveva acquisito troppo potere e gli iraniani l'abbiano chiesto agli Stati Uniti di eliminarlo e oggi hanno messo in scena la reazione così Guido. Altri ascoltatori invece dicono, sostengono che Soleimani non era così amato dagli stessi Pasdaran. In realtà a noi risulta che intanto Soleimani era poco noto in patria perché girava tantissimo, stava sulla prima linea contro ISIS, stava in Siria ad aiutare Bashar al-Assad e quindi era poco noto in patria, però a noi risulta fosse ben voluto tra tutti i Pasdaran. Ma poi avremo un altro ospite esperto di Iran che ci darà una mano anche per cercare di svelare quello che davvero, ascoltatrici e ascoltatori, lo dico senza tema di smentita, è il giallo di queste, non solo di queste ore, ma lo sarà anche per settimane, a mio parere. Allora, prima di aprire l'altra pagina, l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, siccome il generale Tricarico dava giustamente conto di quella che è un'aspirazione in generale dell'Iran, cioè di in qualche modo essere un po' un centro per tutti i movimenti sciiti, non è un caso che sia stata convocata proprio in questi giorni, nei giorni a venire, a Teheran, una riunione delle principali leader sciiti della zona, il che vuol dire che vi saranno i partiti armati iracheni filo iraniani, quindi le milizie sciite che stanno in Iraq, esponenti della jihad islamica palestinese di Gaza e gli insorti yemeniti Houthi. L'unico che non ci sarà sarà Nasrallah, Hezbollah, Libano, ma insomma, non per sfregare la sfera di cristallo, però è evidente che in questo momento una riunione dei principali sciiti armati nella regione potrebbe preludere a un futuro piano di battaglia. Insomma, si incontrano per decidere cosa fare e eventualmente come reagire ad ulteriori reazioni e controreazioni statunitensi. Lo ricordo, mancano solo 20 minuti al momento in cui parlerà Donald Trump e c'è tantissima attesa, evidentemente, perché dovrà dar conto di quello che è accaduto e se vi è stato un bilancio benefico per le truppe statunitensi. Prima di aprire la terza pagina, ve lo dicevo, vi faccio andare in una zona che per il momento abbiamo trascurato, che è il Kurdistan iracheno. Perché lo facciamo? Perché sostanzialmente le più alte cariche del Kurdistan iracheno, e siamo a Erbil, che è una delle zone che è stata colpita dai razzi iraniani, hanno espresso estrema preoccupazione per la possibile escalation del conflitto. Non vogliono essere tirati in mezzo, non siamo mai stati dentro a questo conflitto, non vogliamo farne parte, soprattutto, hanno detto, non vogliamo che i nostri peshmerga che hanno combattuto sostanzialmente contro l'ISIS, ma soprattutto la popolazione civile curda rimanga in mezzo in questa guerra fra due potenze che si combatte in territorio terzo, cioè l'Iraq. Abbiamo raggiunto Mohamed Rwanduzi, giornalista di Ruda, giornale online curdo. A lui abbiamo chiesto se e come una maggiore tensione tra Stati Uniti e Iran potrebbe toccare il Kurdistan iracheno. Sentite. La regione del Kurdistan iracheno è una regione autonoma all'interno dell'Iraq. Ora l'escalation in corso tra Stati Uniti e Iran finora si sta giocando solamente in Iraq, non in Iran o altrove, ma solo sul territorio iracheno. Ora, dato che la regione del Kurdistan è parte dell'Iraq, potremmo pagarne le spese. Uno dei modi in cui potremmo risultare coinvolti è quello a cui abbiamo già assistito nella notte di mercoledì, ossia la reazione dell'Iran all'uccisione del generale Soleimani, che si è manifestata attraverso il lancio di due missili balistici nella regione del Kurdistan. I missili non hanno causato vittime o danni, ma hanno colpito una base militare. Si tratta di una piccola base nella quale le forze della coalizione internazionale forniscono sostegno e addestrano le truppe peshmerga che combattono contro le forze dello Stato Islamico. Se l'Iran vuole effettuare una nuova ritorsione, colpirà una di queste basi e potrebbe colpire di nuovo una base nella regione del Kurdistan. State ascoltando la voce di Mohamed Rwanduzi, giornalista di Ruda, il giornale online curdo, che adesso però ci spiega ancora meglio qual è la conseguenza di un possibile allentamento di presenza delle forze della coalizione. Ne stavamo parlando pochi minuti fa. Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha detto: non ci sono le condizioni di sicurezza, dobbiamo magari dislocare alcuni mezzi, alcuni uomini. C'è stato per esempio gli slovacchi, i tedeschi, gli italiani hanno detto rimaniamo, i francesi hanno detto rimaniamo, però è evidente che l'allerta è massima. Ecco, tenete conto che c'è un gran numero di militari stranieri che sta addestrando e continua a coordinarsi con le forze curde, con le forze peshmerga, quelle che combattevano contro l'ISIS, un ISIS che non è ancora sconfitta. E allora, se, come è già successo, si fermano le operazioni di addestramento e di sostegno e la caccia all'ISIS, cosa può accadere? Sentite il giornalista curdo. La collaborazione sta andando avanti sulla base di alcune premesse. Nelle speranze americane, questa missione è principalmente una missione di addestramento di truppe straniere, con un appoggio finanziario e su tutti gli altri aspetti che contribuiscono a costruire un vero esercito professionistico. E tutto questo sta andando bene, sta funzionando. Un ritiro avrebbe un impatto negativo sulle forze peshmerga. Ogni ritiro in questo momento non porterebbe alcun beneficio all'Iraq in generale. Ricordiamo che gli attacchi dell'ISIS sono tornati a salire. Solo a dicembre sono stati uccisi oltre 80 soldati iracheni, sia nelle province centrali che altrove. Questa è una minaccia reale e i peshmerga rischiano di perdere dei partner inestimabili sul fronte dell'addestramento, vedendo ridotta la loro capacità di combattere contro l'ISIS. E anche l'esercito regolare iracheno ne sarebbe danneggiato. L'esercito iracheno ha bisogno della coalizione, forse ancora di più delle forze peshmerga. Allora, questa è la voce di Mohamed Rwanduzi, giornalista di Ruda, giornalista online curdo, molto ben informato sulle dinamiche del paese. Poi però c'è stato l'allarme di un'organizzazione non governativa, in particolare il Norwegian Refugee Council, che è di base Erbil e lì lavora. Vi faccio sentire la risposta alla nostra domanda su come potrebbe impattare questa crisi sul già grandissimo numero di rifugiati e sfollati che vivono nella regione, e potrebbe essere la crisi nella crisi. Sentite. Escalation del conflitto sicuramente potrebbe avere un impatto sulle missioni umanitarie qui in Iraq e anche sul nostro lavoro. Attualmente ci sono 4 milioni e 100 mila iracheni che hanno bisogno di assistenza umanitaria all'interno del paese a causa del conflitto in corso tra il governo e l'ISIS. Inoltre ci sono migliaia di rifugiati in Iraq. Se la situazione dovesse peggiorare, questo andrebbe a colpire i cittadini iracheni, i rifugiati e tutte le persone che hanno bisogno di assistenza. Anche in Iran le sanzioni hanno penalizzato le attività di assistenza umanitaria per circa 3 milioni di rifugiati che vivono nel paese. Tra il 2018 e il 2019 non siamo riusciti a trovare nessuna banca internazionale che ci permettesse di trasferire le risorse raccolte dai donatori internazionali ai rifugiati afghani e alle comunità dell'Iran occidentale colpite da disastri naturali. Avete sentito Ellen Baker, che è la portavoce del Norwegian Refugee Council. In sostanza si ribadisce che la presenza straniera e occidentale in quell'area è fondamentale. A, dal punto di vista dell'addestramento delle tante milizie, comprese quelle dei soldati, eserciti regolari, compresi quelli iracheni. B, la lotta all'ISIS. C, l'assistenza ai rifugiati. Insomma, sembra che il vaso in parte si sia rotto. Vedremo se i cocci verranno rimessi a posto. Adesso facciamo una piccola pausa. La situazione sulle strade italiane, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Prima però fatemi dare conto di altri messaggi e commenti. Un ascoltatore in maniera provocatoria sostiene che io non do conto e non spiego chi era quest'uomo, intendendo il generale Qassem Soleimani. Non era certamente uno stinco di santo, assolutamente, ma è stato quello, l'abbiamo detto più volte, che faceva le operazioni sporche sotto traccia del regime iraniano un po' in tutto il Medio Oriente. D'altra parte, se voi andate a riguardarvi i servizi della CNN di qualche mese fa, non dico che veniva celebrato, però era date un'occhiata, andiamo a scoprire insieme chi è l'uomo che ha sconfitto l'ISIS. Questo per dire come la narrazione anche negli Stati Uniti sia cambiata improvvisamente nel giro di poche ore. Merito o colpa, stabilitelo voi, della come dire, volatile, definiamola così, politica statunitense. Adesso proveremo a mettere un punto fermo anche su questo. È da tempo che ribadiamo come il Pentagono, l'amministrazione statunitense, voglia ritirarsi dai teatri, quelli più impegnativi. Già l'amministrazione Obama aveva iniziato a farlo col ritiro dall'Afghanistan, quindi da questo punto di vista niente di nuovo. Magari stupisce l'invio di nuovi soldati americani, però questo era dettato anche dalla risposta iraniana. Ora cercheremo di capire meglio e di affrontare quella che è una tesi che vi proponiamo. Lo facciamo con Annalisa Perteghella, analista di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperta di Iran. Annalisa, ben ritrovata qui a Nessun Luogo Lontano. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora Annalisa, io provo ad abbracciare un po' di commenti che sono arrivati al 349-238-6666 e, come dire, a shakerarli un attimo e a tirar fuori un cocktail. Te lo faccio gustare, vediamo se ti piace. Allora, il presidente Trump fa fuori quello che per lui era uno dei grandi nemici, un terrorista a tutti gli effetti, e si appunta la medaglia sul petto in vista del 2020. L'Iran fa cadere una pioggia di missili su basi americane, però preallerta, non fa morti, però può dire che, insomma, ha scaricato potenza di fuoco sul grande invasore. Entrambi possono giocare questa carta al loro interno, ma nessuno si è fatto male. Allo stesso tempo, però, Khamenei dice che le truppe americane devono andarsene. Ti faccio sentire, Annalisa Perteghella, queste due dichiarazioni, una via l'altra, perché sono estremamente interessanti. حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه. And thanks to their bravery, we are now able to pursue a possible political solution. As we make progress in these negotiations, we will be able to reduce our troops' presence. Allora, parole chiave, le prime in farsi, non sono certo che tutte le abbiano capite. Comunque il tema importante è cosa fare ora, ha detto Khamenei. È certo che la presenza corrotta degli americani in questi territori deve cessare. Gli ha fatto eco, anche se va una dichiarazione di qualche tempo prima, Donald Trump, ridurre le truppe americane. Ma non è che Trump e Khamenei vogliono la stessa cosa? Ma allora, indirettamente sì, nella dichiarazione di Khamenei, che tra l'altro è stata molto più dura di quella del ministro degli esteri Zarif, si dice che l'attacco di questa notte, che in realtà è una risposta all'attacco americano di qualche giorno fa, non è che l'inizio, mentre invece Zarif segnala che questa era la risposta conclusiva e finale. Appunto in rappresaglia per quello subito l'altra notte. Sì. Trump dal proprio canto non voleva probabilmente arrivare a questo, meglio, non aveva contemplato che una tale decisione, l'uccisione di Soleimani, avrebbe portato dei enormi rischi per la sicurezza delle truppe americane stanziate in Iraq, per cui se sicuramente l'obiettivo sul lungo periodo era quello di arrivare a un minore ruolo nel paese, non si aspettava probabilmente di doverlo fare così in poco tempo. Sì. E in queste condizioni assolutamente caotiche, abbiamo visto lettere. Certo. che annunciano, che poi ritirano, insomma. Sì. c'è un po' di caos in questo momento. Ecco, Annalisa Perteghella, analista esperta di Iran per ISPI, quando c'è caos forse conviene guardare a lungo termine. Esattamente qual è l'obiettivo di Teheran nel lungo termine, oltre a quell'egemonia nell'area che il generale Tricarico poco prima di te stava sottolineando? Qua c'è il tema delle sanzioni, correggimi se sbaglio. Esattamente, l'obiettivo della Repubblica Islamica è la sopravvivenza della Repubblica stessa, per cui chiaramente in questo momento ciò che più mette a dura prova la tenuta del sistema sono le sanzioni, in parte perché chiaramente venendo a mancare appunto introiti economici lo Stato è in difficoltà, in parte perché l'abbiamo visto fino a due settimane fa fomentano proteste che quindi mettono sotto pressione insomma l'intero sistema, quindi l'urgenza in questo momento è tornare a poi pienamente all'accordo nucleare, quindi ovvero vengano tolte le sanzioni, l'Iran torni a essere quel paese che era stato gradualmente reintegrato, diciamo, nella comunità internazionale dopo l'accordo, eccetera eccetera. Io non credo che l'Iran abbia obiettivi egemonici tout court, o meglio anche l'intera strategia insomma che il generale Soleimani portava avanti, che era quella appunto di questa rete di milizie, di proxy attivi un po' in tutto il Medio Oriente, corrisponde a quella che in Iran si chiama la difesa avanzata, no? Cioè l'Iran è tendenzialmente isolato nella regione perché è circondato da paesi che sono rivali, Arabia Saudita, Israele, eccetera. Sì. Si difende mettendo un po' delle assicurazioni, potremmo chiamarle così, sì, all'estero, cioè creandosi una profondità strategica, e l'abbiamo, insomma, è quello che poi rende credibile la minaccia in queste ore. L'Iran dice: se voi colpite il nostro territorio, noi possiamo colpire obiettivi statunitensi o anche non statunitensi, certo, in qualsiasi momento, in qualsiasi paese. Ecco. Sì, sì. Allora, Annalisa Perteghella, hai sottolineato anche quello che è un aspetto di isolamento dell'Iran, e c'è un problema economico con una popolazione che ha protestato. Dobbiamo ricordare le centinaia e le migliaia di morti delle ultime proteste. Certo, non basta un funerale per, come dire, andare a comprare il pane l'indomani mattina. Quindi, se dal punto di vista dell'emozione, stringersi attorno a quel comandante può aver aiutato, per il morale alla fine la borsa, il portafogli evidentemente conta, un'economia al collasso. Come può uscire l'Iran da queste sanzioni, uscire da questo isolamento? Zarif è molto amico di Macron, lo abbiamo visto anche raccontato nelle settimane scorse, c'è quasi un canale privilegiato. Secondo te questa può essere la chiave? Una Francia ancora una volta che gioca un ruolo di primo piano in diplomazia e in qualche modo aiuta Teheran? Sicuramente la Francia di Macron in queste ore, in questi mesi, direi è il paese più attivo a livello di politica estera, a livello di diplomazia. Macron stesso era stato appunto l'autore di un tentativo un po' in extremis lo scorso settembre di mediazione tra Trump e Iran, quando l'aereo di Zarif era atterrato, sì, a sorpresa al G7 di Biarritz. Sì. Poi finì tutto in un nulla di fatto. Purtroppo, appunto, per quanto Macron, per quanto l'Europa possa fare fino a che Trump non arriva, diciamo, più miti consigli, sì, ovvero appunto a cercare la de-escalation, non si può fare più di tanto. L'auspicio di molti in queste ore è che effettivamente dopo la tensione inaudita di questi giorni, Trump abbia capito il messaggio, diciamo così, e tra virgolette la reazione iraniana di questa notte un po' ha, diciamo, permette anche a Trump di salvare la faccia, perché l'Iran ha risposto perché doveva farlo, certo, non ha però causato vittime, se avesse, sì, voluto le avrebbe potute fare, perché l'Iran ha una precisione, insomma, i missili iraniani sanno colpire obiettivi in maniera mirata, per cui c'era la volontà di lanciare un segnale e non quella di fare vittime. Per cui, tra virgolette, in questo modo per l'Iran è chiusa lì per il momento. Certo. Sa adesso Trump, che tra l'altro parlerà tra pochissimo. Infatti, Annalisa Perteghella, noi un occhio lo stiamo buttando a CNN, BBC, c'è già la Casa Bianca, è già tutto pronto, attrezzato il tappeto rosso, Donald Trump sta per parlare e è attesa una dichiarazione proprio su questo. In qualche modo, come dire, dal punto di vista strategico e di scenario del futuro, il pallino passa a Trump, ma passa davvero nelle prossime ore. Intanto grazie mille Annalisa per averci aiutato a capire meglio anche quello che è l'atteggiamento iraniano, non sempre facilmente perscrutabile. Grazie mille Annalisa Perteghella, buona giornata. Grazie. Buon lavoro. Roberta Frisami, che dici, potremmo lanciare i titoli di coda per esempio, con i quali ringrazio tutta la squadra di Nessun Luogo, voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.